752 Ponce di arancio. Rum litri 1,5, spirito litri 1, acqua litri 1, zucchero bianco fine chilogrammi 1, sugo di 3 aranci. La buccia grattata di un limone di giardino, tenuta in infusione per 3 giorni, in un decilitro del detto spirito. Mettete al fuoco l'acqua con lo zucchero e fatelo bollire per 5 o 6 minuti. Quando sarà ghiaccio, uniteci il rum, il sugo degli aranci e lo spirito, compreso quello dell'infusione, passato per pannolino. Filtratelo come gli altri liquori e imbottigliatelo. Si usa servirlo acceso in bicchierini.